L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento del sabato dedicato all'Europa, un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet.eu. Tante radio, tante voci, tanti approcci diversi per raccontare l'Europa, e anche noi qui il sabato cerchiamo di portare il nostro contributo. L'attualità, la politica, l'economia dell'Europa viene raccontata da Radio 24 giorno per giorno. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altre sfumature per respirare un po' di questa Europa che è, dell'Europa che sarà. Ci potete seguire anche in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure su Twitter, @ Federico Taddia, l'hashtag è l'altra Europa lì, e carichiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Queste sono tutte le coordinate per seguirci. Ogni settimana un viaggio. Oggi la prima tappa è la Romania. Quello che state ascoltando è l'inno di un partito politico in forte ascesa in Romania in vista delle elezioni che si terranno a giugno. Il partito del popolo, ma non è tanto il partito ad essere caratteristico, ad essere così originale, quanto il suo leader, proprietario, giornalista, proprietario di una rete televisiva che si caratterizza per programmi particolarmente trash. Lui stesso, questo Dan Diaconescu, quando gli hanno chiesto scusa ma tu che televisione vuoi fare, lui ha detto: io voglio fare una televisione che sia fatta di cacciara, che sia fatta di persone che vanno, gesticolano, offendono, incitano alla rissa, quindi tratti fortemente populisti. Ma tutto ciò ha portato anche a un partito che ha più o meno le stesse caratteristiche, ma sta avendo forte presa sull'elettorato. Per avere una fotografia reale, realistica di questo strano personaggio, abbiamo invitato Alina Harja, giornalista per la TV rumena Antena 1 e direttrice del giornale Actualitata. Ciao Alina, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tanto, scusami, prima di entrare nell'argomento, parlami un attimo di questo giornale che tu dirigi, perché è particolare, vero? Cos'è, una testata per i rumeni in Italia, ho capito bene? Sì, è un giornale gratuito che si distribuisce qui in Italia per i rumeni d'Italia. Abbiamo anche un inserto in italiano di 4 pagine chiamato Il Rottaliano, proprio per un gioco di parole, insomma, tra rumeno e in italiano. È un bisettimanale e, diciamo, tentiamo come linea editoriale di dare quelle notizie che potrebbero essere utili, potrebbero interessare proprio ai rumeni qua, quindi notizie sia dalla Romania ma soprattutto dell'attualità locale qui, degli eventi, delle varie associazioni, delle varie strutture, proprio una fotografia, diciamo, della comunità romena qua. Che bello, lo approfondiremo sicuramente, lo seguiremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Oggi invece parliamo di questo personaggio, televisione politica, binomio che noi italiani conosciamo bene. In Romania invece cosa sta accadendo? Ma Dan Diaconescu è un personaggio, come dicevi prima, un pochettino folcloristico, nel senso che lui ha fatto una TV in una garçonnière, praticamente, che era un talk show continuo. E praticamente in cui succedeva proprio questo, cioè lui ha lanciato dei personaggi molto trash, dei personaggi che abitualmente non si vedevano sulle televisioni romene, perché bene o male c'era il Consiglio Nazionale Audio Video che comunque alcune cose li censurava o quantomeno dava un po' di dritte. Dopodiché, man mano però che lui creava questi personaggi andavano anche nelle altre televisioni, e quindi è iniziato, in qualche modo è riuscito intanto a contagiare anche le altre TV, un po' abbassando la media di alcuni programmi. Dall'altra parte però è iniziato a intercettare, insomma, era qualcosa di nuovo, qualcosa di folcloristico che è riuscito a intercettare molta, diciamo, non necessariamente il consenso, quanto comunque la simpatia, l'interesse, esatto. Questa la sua ambizione politica, insomma, inizialmente lui ha appoggiato l'attuale presidente Traian Băsescu. In realtà lui intercetta una gran parte dei voti del partito del presidente, del PDL, Sì, qualcosa anche dal PSD, però dell'opposizione, ma gran parte di questi voti, di questi sondaggi abbastanza sorprendenti, sono dei voti che prima prendeva il partito dell'attuale presidente, anche lui basato sul populismo di più bassa spezia, se possiamo dire così, insomma. Ecco, ma questa contaminazione che ha avuto in televisione l'ha avuta anche nel mondo politico, nel senso che questo nuovo stile fatto di urla, grida, gestacci, insomma, la rissa più che il confronto lo ha portato anche nel mondo politico, e anche gli altri partiti si stanno abbassando a questo stile? Ma non lo so, già il mondo politico rumeno è fatto come Cuomo, siamo molto simili da questo punto di vista, di confronti più che altro combattiamo le persone anziché le idee, spesso e volentieri non necessariamente, cioè sia alla destra che alla sinistra, poi a livello di programmi dicono più o meno la stessa cosa, ma nessuno riesce in realtà a avere delle idee chiare, però quello che succede, noi stiamo parlando comunque, dicevo prima, di un del 19,8% per esempio dell'elettorato della capitale, sempre accettando dei percentuali anche molto alti, ma è un voto di protesta che non succede solo adesso. Nel 2000 c'è stato, i rumeni hanno votato il candidato all'epoca della Romania Mare, un partito estremista di estrema destra, nazionalista eccetera eccetera, e un partito che di solito prendeva il 4%, si è risvegliato che il suo presidente, Vadim Tudor per l'appunto, stava per diventare presidente della Romania. Poi nel secondo turno la gente ha cambiato idea, era un voto di protesta dal momento che non c'erano alternative credibili, dal momento in cui tutte le parti politiche dicevano più o meno la stessa cosa, senza nessuno avere delle idee chiare o comunque un progetto politico credibile per l'elettorato che possa in qualche modo risolvere i problemi del paese, a quel punto, insomma, e credo che succeda la stessa cosa anche adesso con Dan Diaconescu, certo. Cioè, tutti quelli che hanno dato il voto al presidente pieni di speranza eccetera eccetera, poi se ha visto che non c'era e che la popolazione sta sempre peggio, che la crisi economica che ha influito su tutto il paese, soprattutto lì sta prendendo piede molto di più, e quindi giustamente tentano di dare il voto a qualcuno che in teoria ha le idee chiare, ma certo, Non c'è una sostanza. Sì, sì, molto concreta. Immagino. Alina, grazie davvero per averci tratteggiato la situazione, ma ci ritroveremo sicuramente in occasione delle elezioni, così andiamo a vedere quello che è accaduto. Ciao, in bocca grazie al lupo per il tuo lavoro, per il tuo quotidiano. Abbiamo già pubblicato i link sulle nostre pagine in Facebook e in Twitter. Ciao e buon sabato. A 23 anni dopo la caduta del muro di Berlino, l'Unione Europea sta permettendo la costruzione di una recinzione, preferiscono questo termine, lungo il confine tra Grecia e Turchia, ma non è l'unico muro, ci sono anche altri muri che stanno nascendo sulle frontiere. Beh, il tema di Euronet di questa settimana è proprio questo. Perché? Perché ci sono questi muri, a chi servono, chi li vuole, chi li finanzia? Una situazione sicuramente complicata, con tante implicazioni politiche, e un po' il simbolo di questo è appunto il muro che si sta costruendo tra la Grecia e la Turchia. Questo muro è stato visto da poco da un collega di Radio 24, è stato sul posto, ha raccolto interviste, sta preparando vari reportage anche per la nostra radio. Diamo il ben ritrovato a Gianpaolo Musumeci. Ciao Gianpaolo. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Evros, è un simbolo di una nuova Europa questo muro? Che cos'è? Cosa rappresenta? Cos'è e cosa sarà soprattutto? Beh, intanto speriamo che non sia il simbolo di una nuova Europa, perché significa un'Europa che diventa sempre più fortezza e che si chiude di fronte al fenomeno dell'immigrazione. In realtà il muro è ancora in costruzione, se ne parla da mesi. Alcuni mesi fa il ministro dell'interno greco aveva inaugurato in pompa magna, con tanto di fotografi, il primo tratto di questo muro, che in realtà è una rete, è alta 4 metri, con filo spinato e quant'altro, poi telecamere di controllo, e poi però i lavori sono fermati perché la crisi economica si fa sentire, perché poi l'Unione Europea pare abbia fatto marcia indietro, doveva destinare parte, alcuni milioni di euro per appunto finanziare e cofinanziare questa rete, che dovrebbe essere lunga 12,5 km e dovrebbe in qualche modo assicurare maggiormente il confine terrestre Grecia-Turchia. Dico in qualche modo perché poi in realtà la buona parte del confine, 150 chilometri, è assicurata dal fiume Evros, che però irrimediabilmente viene continuamente attraversato da migranti che passano il confine irregolarmente, illegalmente, quindi senza i documenti, ogni notte. Sono circa 200 quelli che riescono a fare questo passaggio lungo questi 150 chilometri di confine, lo fanno nottetempo, di nascosto, aiutati dai trafficanti che li accompagnano nei punti in cui il fiume è più attraversabile, e appunto poi passano, con il risultato che l'anno scorso sono passati in 55.000, e quindi Evros è un po' la grande porta, il grande ingresso per l'immigrazione irregolare in Europa, dopo che le tristemente famose rotte di Lampedusa, ad esempio quelle delle Canarie, sono state chiuse dai maggiori controlli delle polizie europee. Certo. E Giampaolo, conoscendo bene il tuo modo di lavorare, al di là della situazione politica, immagino tu abbia avuto modo di intervistare alcuni di questi migranti, con che spirito attraversano questo confine? Ma allora io sì, ho incontrato gente da tutto il mondo. La cosa incredibile è questa, no? Che il meccanismo dell'immigrazione, quando si apre una porta, quando una porta è accessibile, allora i trafficanti fanno in modo che quella porta lì diventi un po' il centro d'ingresso per anche i loro clienti, tra virgolette. Quindi ci sono gli algerini, i marocchini, i tunisini, ci sono afghani, nepalesi, curdi e anche gente di Santo Domingo, che addirittura fa il giro dall'America centrale, atterra negli aeroporti africani, arriva a Istanbul, da Istanbul a piedi arrivano al confine dopo giorni di viaggio, poi di notte. A volte il canotto finisce in acqua, altre volte loro sono spinti in acqua dai trafficanti, sono costretti a farlo a nuoto, quindi arrivano con stati d'animo diversissimi. Quello che molto spesso sono spaventati, infreddoliti, lì è il punto più freddo della Grecia, in inverno si raggiungono i meno 20 gradi. Io lavoravo soprattutto di notte, mi mettevo sulla riva del fiume a aspettare appunto l'arrivo dei migranti. Fra l'altro è una zona in cui i giornalisti non possono accedere, per cui devo, come dire, nascondermi anche dalla polizia greca. Il sentimento predominante è ovviamente la gioia, cioè quando li incontravo mi chiedevano: ma questa è l'Europa, siamo sicuri? Quando dicevo sì, è Grecia, è Europa, esplodeva la loro gioia. Poi in realtà la gioia dura pochi giorni, perché vengono arrestati, viene dato loro un foglio di via, hanno 30 giorni di tempo per lasciare la Grecia, nessuno torna nel paese d'origine ovviamente, perché loro puntano ai paesi del nord Europa, anche all'Italia a volte, e però scoprono che la Grecia si trasforma irrimediabilmente in una prigione in cui è facile entrare ma è difficilissimo uscire, quindi poi andranno a Patrasso, Igoumenitsa, cercando di raggiungere l'Italia attraverso i battelli, nascondendosi dentro i camion, oppure finiranno nei quartieri dei migranti ad Atene, dove poi la polizia farà le sue retate. Quindi la situazione è molto molto complessa. Politicamente mi sento di dire solo una cosa: è chiaro, si è visto negli anni che la costruzione di muri non funziona, perché una volta che tu chiudi una porta, i trafficanti di uomini cercheranno un'altra porta, il viaggio costerà di più, i trafficanti comunque faranno entrare i migranti e semplicemente il viaggio sarà più lungo, più caro e pericoloso. Giampaolo, grazie davvero come sempre. Nelle prossime settimane i tuoi reportage qui in onda su Radio 24. Complimenti come sempre, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E noi rimaniamo però in Grecia per capire se, partendo da questo muro che divide, ma di fatto unisce anche con la Turchia, ma se questo muro allontana o avvicina la Grecia all'Europa. Varie riflessioni in vista anche delle elezioni che sono state indette per il 6 maggio in Grecia, che facciamo con Vicky Markaki, giornalista freelance. Ciao Vicky, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno anche da me. Il collega ha assolutamente ragione, il muro, se non altro, non ha risultati pratici, sono 13 chilometri in un'area di 150 chilometri. È più che altro un atto simbolico nella realtà, un atto simbolico barbaro, senza ombra di dubbio, che costerà 3,5 milioni di euro, che nessuno sa da dove usciranno in questo momento, visto che effettivamente anch'io ho informazioni che la Comunità Europea, che doveva cofinanziare l'opera in atto, si è tirata indietro. dai 54.000 clandestini che sono entrati in quell'area di Evros, perché parliamo dell'area al nord della Grecia che si chiama Evros, il fiume, sono la metà dei clandestini che sono entrati ufficialmente nel 2011 in Grecia, cercando di uscire naturalmente. C'è una grandissima contraddizione in tutto questo, perché in fondo il muro non è altro che una parte sul terreno della Frontex, che è una parte della comunità, delle forze della comunità europea e anche greche, sul mare, che hanno lo stesso compito, mandare indietro i clandestini quanto li trovano sui barconi al mare. Questo va bene, il muro non va bene, ma non funzionano, niente di tutto ciò funziona. Il contenzioso dei clandestini con la Turchia è molto preciso. La Turchia dice: se voi Europa, non voi Grecia in questo punto, togliete il visto per i cittadini turchi, noi faremo il nostro dovere per fermare questa emigrazione clandestina, o almeno per prendere indietro chi viene arrestato e non ha diritto all'asilo e non ha nessuna ragione per avere il permesso di entrare in Europa. Fin quanto voi non togliete il visto, noi non faremo assolutamente niente. Tutto questo peso lo sopporta la Grecia da sola. Certo, e naturalmente i cittadini greci in questo momento specialmente diventano non razzisti ma intolleranti al massimo. Non hanno fisicamente ormai la possibilità di sopportare altri problemi, sono talmente tanti i problemi della miseria che ha comportato la crisi, che in fondo io credo manco se ne occupa nessuno di questo specifico problema, il quale però indietro nasconde una vera e propria tragedia, perché questi che cercano di attraversare nuotando molte volte muoiono nei meno 20 gradi dell'inverno, quell'acqua là significa morte per tantissime persone. Certo, insomma, una situazione assolutamente drammatica in un contesto altrettanto drammatico. E, Vicky, sono state indette allora le elezioni 6 maggio. Elezioni. Esatto, sarà la soluzione per la Grecia? Saranno la soluzione? Ma certo che no. Tutto indica che il 6 maggio si voterà per votare, per dare una legittimazione, una qualche legittimazione, in una situazione che sarà la stessa, perché tutte le statistiche, tutti i prognostici dicono che continueranno a governare i due grandi partiti che governano in questo momento in un governo di unità nazionale, perché nessuno sarà vincitore, perché nessuno riuscirà a fare un governo autonomo. I numeri dicono che il 60-80 che è intorno al 35% il massimo che un partito. Però ho visto che hanno trovato l'accordo per questo finanziamento di 29 milioni di euro ai 5 maggiori partiti per la campagna elettorale. Sì, a quanto pare le elezioni costeranno un minimo 50 milioni di euro, che effettivamente in questo momento sembra un'assurdità, perché è ovvio che non cambierà niente, non ci sarà un vincitore, non ci sarà nessuno che potrà fare un governo da solo, il che significa che nella pratica la situazione rimarrà esattamente com'è, solo che avrà la benedizione del popolo, che non l'avrà. Io credo personalmente che per la prima volta in Grecia ci sarà una grande astensione. E credo anche che comunque nessuno spera di risolvere il problema da solo. Allora in questo punto forse era più logica una soluzione di tipo tecnico, tecnocratico la chiamiamo noi, invece che questo governo di unità nazionale, che in realtà logora tutta la politica ancora di più senza dare soluzioni. C'è una sorta l'unica di proprio novità è l'arresto dell'ex ministro. Esatto, un accanimento terapeutico politico, diciamo, sì, così. Cose le quali peraltro tutti sapevano da anni, il fatto che l'ex ministro del PASOK aveva 23 immobili ad Atene di pregio, lo sapevano tutti,

tanti, tantissimi i giovani kosovari e proprio sono il futuro, sono la speranza, anche se i problemi sono tanti. Per affrontare questo argomento abbiamo invitato Mariola Rucchiai, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso da Albania e Kosovo. Ciao Mariola. Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, grazie. Bene. Voi? Noi molto bene, grazie. È davvero questo il Kosovo? È lo stato dei giovani? Sì, sicuramente è appunto lo stato più giovane persino di una regione appunto che è forse la più giovane del continente, appunto dell'Europa. E purtroppo questo potrebbe essere un vantaggio se comparato alle altre nazioni, specialmente all'Europa occidentale, invece si è trasformata in uno svantaggio che ha sicuramente principalmente a che fare con la mancanza di strategie, con un'elite che non sa essere produttiva e strategica appunto nella risoluzione dei veri problemi del paese, quindi sicuramente si tratta di problemi strutturali della società kosovara. Ecco, ma anche la classe politica è giovane? Sì, giovane di età, dico, sai, ho visto un po' l'età media anche di alcuni dei governanti, dei ministri, insomma, ci sono diversi under 40, quindi comunque questa giovane età che caratterizza la nazione caratterizza anche la classe dirigente. Sì, sicuramente vi sono innanzitutto la leadership, appunto i grandi leader come Hashim Saci, Haradina, eccetera, che sono gente che proviene, che sono anche loro più o meno giovani, che appunto proviene dalle fila dell'UCK e quindi è comunque una generazione relativamente giovane che ha poco a che fare con il passato precedente del Kosovo, quindi vi è un ricambio generazionale molto forte. Poi vi sono le nuove generazioni che sono naturalmente completamente appunto appena introdotte, appena in politica, appena usciti dai banchi appunto dell'università oppure anche di sistemi di istruzione più bassi. Questo però non vuol dire necessariamente che si abbiano appunto delle alternative, appunto i giovani comportano spesso oppure sono visti un po' come sinonimo di progresso e di progressismo, appunto di alternative per portare avanti il paese. Ecco, nel caso del Kosovo la questione è molto complessa e non si può decisamente dire che queste nuove generazioni abbiano preso distanza appunto dai vecchi schemi del nazionalismo che in Kosovo è sempre molto identitario, molto mainstream e appunto certo. Costituisce un problema anche nei rapporti con il resto dei Balcani, appunto dei paesi ex jugoslavi, e non è detto neanche che siano preparatissimi a livello professionale appunto, certo. Perché ricordiamo che questi giovani sono anche infatti i giovani più frustrati d'Europa, in quanto Kosovo è il paese appunto più isolato dei Balcani occidentali. E Mariola, grazie davvero come sempre. Mariola Rucchiai, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org, l'indirizzo di questo portale ottimamente fatto. Ciao Mariola, buon sabato, grazie a te, grazie ancora. Grazie, buon sabato a voi. E abbiamo solo un minuto per parlare di questo bel progetto che arriva dalla Slovacchia il 18 aprile per la giornata contro la segregazione, per l'integrazione, per un nuovo ruolo della cultura nell'inclusione dei Rom a Bruxelles, quindi un'intera giornata organizzata dalla Commissione Europea per parlare dell'importanza della cultura Rom. Dalla Slovacchia arriva questo progetto. Per capire di cosa si tratta veramente in pochi secondi abbiamo invitato Anna Babiakova, ingegnere che ha lavorato in Italia e fa da portavoce per ETP Slovacchia, che è l'ente che ha organizzato questo percorso culturale con i giovani rom. Ciao Anna, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci puoi raccontare veramente in pochi secondi cosa succederà quel giorno? Sì, certo. Allora, ETP è un'organizzazione non a scopo di lucro, affermata negli anni 90 per aiutare i gruppi socialmente deboli e socialmente esclusi. La minorità della gente rom, naturalmente, anche qui in Slovacchia fa maggior parte di questo gruppo. Tanta gente, soprattutto i giovani, cercano di trovare il modo di integrarsi nella vita regolare e anche motivare gli altri. La nostra intenzione è stimolare la gente rom che si trovano in questa situazione difficile e offrirgli l'opportunità per vivere una vita migliore. E questo l'avete fatto attraverso uno spettacolo teatrale? Sì, Slamdog Teatro è un gruppo di gente giovane con l'origine rom, che vengono di Moldava nad Bodvou, che è una piccola città, la regione della Slovacchia orientale, dove si trova una grande comunità dei rom. E siamo stati invitati per partecipare alla conferenzione di Bruxelles per presentare le nostre esperienze e i risultati del nostro lavoro con la gente rom usando le forme artistiche. Anna, chiedo scusa, ci torneremo sicuramente, ma abbiamo pochissimo tempo. Diamo il sito intanto, che è www.etp.sk. Al volo, l'Altra Europa. Ci troviamo sabato prossimo. Ciao!